Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. Buon pomeriggio, benvenuti a Fermata Provvisoria, il contributo del martedì di Fuscico Factory. Io sono Carlotta e oggi intervisteremo un giovane cantautore siciliano, Pier Francesco Cordio, in arte semplicemente Cordio. Ha solo 24 anni, ma ha già aperto i concerti di Ermal Meta e Simone Cristicchi e si è fatto conoscere al grande pubblico a dicembre 2018, quando ha partecipato alla scorsa edizione di Sanremo Giovani, presentando il brano La nostra vita. Restate con noi perché avremo tante cose di cui parlare con la nuova promessa del cantautorato italiano. E poi ti accorgi del vento una sera d'agosto e già un'altra estate ti passa di fianco. Ti accorgi che presto è arrivato l'inverno, ogni anno più freddo dell'altro. Ti accorgi per caso che ha chiuso per sempre quel vecchio locale dove andavi a ballare. Ti accorgi di certo che manca tua madre quando torni e non c'è da mangiare. Ma ti sei mai chiesto se il mondo si accorge di te? La nostra vita è un aereo veloce che passa, ci offre un passaggio e poi se ne va. E non ci pensare mai all'atterraggio, goditi il viaggio intanto che va. Questa vita assomiglia a un castello di sabbia che al suono di un'onda si sbriciolerà. E non ci pensare al tuo corpo che cambia, lascia qualcosa che poi tornerà. Ti accorgi del tempo quando ne hai perso e delle illusioni quando un giorno hai scoperto che ci sarà sempre qualcosa che manca, che ci sarà sempre qualcuno che sbaglia. Ma ti sei mai chiesto se il mondo si accorge di te? La nostra vita è un aereo veloce che passa, ci offre un passaggio e poi se ne va. E non ci pensare mai all'atterraggio, goditi il viaggio intanto che va. Questa vita assomiglia a un castello di sabbia che al suono di un'onda si sbriciolerà. E non ci pensare al tuo corpo che cambia, lascia qualcosa che poi tornerà. Perché di te questo resterà, resteranno i tuoi occhi negli occhi di chi hai guardato davvero fino in fondo nell'anima. E come piccoli petali al vento girerà per il mondo quel fiore che un giorno hai lasciato volare dal tuo palmo di mano ed è andato lontano. Siamo al telefono con Pier Francesco Cordio, giovane cantautore catanese, reduce dal tour di Ermal Meta e di Simone Cristicchi, dei quali ha aperto i concerti. Dopo i singoli La nostra vita, canzone portata al Festival di Sanremo un anno fa nella sezione Nuove proposte, Angoli e spigoli e Almeno tu ricordati di me, Cordio torna con Il paradiso, il nuovo singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali e radio dal 4 ottobre. Ciao Cordio, benvenuto a Radio Città Fuscico. Ciao, ciao. Grazie per l'invito. È da poco uscito il tuo nuovo singolo, Il Paradiso, che tu stesso hai definito una ninna nanna piena di rabbia. Un ossimoro molto bello e anche molto esplicativo, pur nella sua sintesi. Ci racconti meglio com'è nata questa canzone? Questa canzone è nata da una notizia di cronaca. Io da qualche anno vivo a Milano, però avevo letto dal Giornale della Sicilia, come hai detto tu, sono catanese, avevo letto di un abuso ai danni di un bambino che era accaduto negli spogliatoi del campo dove io giocavo a calcio quando ero ragazzino. E questa notizia chiaramente mi ha ferito ancora di più, perché oltre al fatto in sé sono riuscito, diciamo, proprio a immedesimarmi nel contesto in cui è avvenuta. E Il Paradiso è una canzone che nasce da questo sentimento di profonda rabbia per le ingiustizie che accadono tutti i giorni nel mondo, e in qualche modo nasce anche dal desiderio che da qualche parte, forse non in questa terra, si compia la giustizia. E a volte è difficile immaginare che in questo mondo i poveri vengano veramente aiutati, i bambini protetti, le persone che hanno bisogno di un rifugio accolte. Allora ho pensato, se non è qui nel paradiso, sicuramente tutti coloro che hanno sofferto in questa vita in qualche modo avranno la loro felicità. Nel testo ricorre più volte la frase "il paradiso è pieno di bambini" e anche "in paradiso non ci sono artisti". Ecco, suona un po' strano un paradiso abitato da dei bambini, perché alla fine sì, il paradiso è un luogo magico, una sorta di utopia anche, però è anche il luogo dove appunto è l'aldilà, dove va chi è morto. Chi sono questi bambini? Che forma hai dato a questo luogo che loro abitano? Allora, questa cosa è una citazione del Vangelo, perché nel Vangelo a un certo punto c'è scritto, Gesù dice ai suoi apostoli, alle persone con cui parlava, che se non diventeremo tutti come dei bambini, non ci sarà posto per noi in paradiso, no? E questa cosa mi colpiva, perché al di là, come ti dicevo, appunto, la canzone nasce da quella notizia di un abuso ai danni di un bambino, e quindi ho pensato che sicuramente i bambini sono sulla terra gli esseri umani più fragili e indifesi, per cui quando subiscono un'ingiustizia, non so, è come se fosse ancora più grave, ancora più dolorosa l'ingiustizia. E infatti nella canzone dico che sono gli unici con le ali, come a dire, cioè un bambino non ha avuto neanche il tempo, se un bambino che non c'è più non ha avuto neanche il tempo di vivere, per cui in qualche modo deve avere un riconoscimento ulteriore. E poi però intendo dire anche che tutti dobbiamo diventare dei bambini, appunto, cioè, perché un bambino in fondo cos'è? È l'essere umano più trasparente e autentico, magari, no? Cioè, perché anche quando fai capricci lo si vede, quando è triste o quando è felice, non ha filtri. E in qualche modo questa cosa va forse vissuta anche quando diventiamo adulti, no? Paradiso è pieno di bambini che volano sugli aeroplani e tirano palle di neve agli adulti che non hanno ali. Il paradiso è pieno di persone che non sono mai andate a messa, ma sono sempre state buone, non soltanto nella loro testa. In paradiso non ci sono artisti, quelli famosi in particolare, sono all'inferno tra i narcisisti dove nessuno li può notare. In paradiso non ci sono ricchi, non c'è chi vive per lavorare, ma c'è chi ha lavorato tanto e ha sempre dato se poteva dare. Il paradiso è pieno di ragazzi che un giorno si sono ammazzati perché erano tristi e stanchi o solamente non ascoltati. Il paradiso è pieno di barboni morti di fame e freddo, sono i padri dei viaggiatori, dall'alto adesso li proteggo. Pieno di migranti che sono annegati in mare, hanno avuto una galassia intera come posto dove abitare. In paradiso religione e chi ama è libero di amare senza più alcuna divisione. Il paradiso è pieno di bambini. Che giocano con gli aeroplani, in cielo sono i preferiti, sono gli unici con le ali. Questa canzone era già stata presentata a Sanremo Giovani 2 anni fa, correggimi se sbaglio, per poi essere scartata all'ultimo. E proprio l'anno scorso hai partecipato a Sanremo Giovani con il brano La nostra vita, che ha ottenuto un discreto successo. Infatti, se non erro, ti sei classificato al 4º posto, giusto? Sì. Che significato ha per te il palco del festival più famoso d'Italia e che ricordo ti ha lasciato? Ma guarda, un grande piacere. Io sono uno che ha sempre visto Sanremo. Mi ricordo che quando da piccolino c'era, lo stesso giorno di Sanremo, c'era una partita nell'altro canale, che ne so, di Champions League, io volevo guardare il festival. Ero l'unico della mia età che voleva guardare il festival e non la partita di Champions League. Per cui immaginati, insomma, è una cosa. Io proprio faccio musica italiana, mi piace la musica italiana, per cui per me è una grande soddisfazione. Poi ti racconto una cosa, che quando feci l'audizione per l'ultima edizione di Sanremo davanti a Baglioni, sì, dopo l'audizione lui mi disse che gli era dispiaciuto che l'anno prima io non fossi poi comunque stato scelto, perché il paradiso gli era piaciuta molto e questa cosa mi riempì d'orgoglio. Benissimo, se lo dice Baglioni poi è una garanzia. Nel 2017-2018 hai aperto molti concerti di Ermal Meta, che è un punto di riferimento per te, visto che in un certo senso ti ha lanciato lui. Come vi siete conosciuti tu ed Ermal e che rapporto c'è tra di voi a tutt'oggi? Allora, ci siamo conosciuti per caso nel 2015 in spiaggia, perché io ero già suo fan. Ah. Allora lo avvicinai per farmi, insomma, per ringraziarlo, per ringraziarlo, per fargli i miei complimenti. E lui, che è un ragazzo molto generoso e molto semplice, ha avuto piacere a offrirmi un aperitivo. Eravamo in Sicilia, allora ci siamo conosciuti così. Poi lui da lì a poco sarebbe diventato Ermal Meta, perché poi fece Sanremo e quant'altro, però noi non abbiamo smesso di sentirci, e dopo un po' che gli mandavo le mie canzoni, lui ha deciso, insomma, di essere il mio produttore artistico, il mio mentore, per cui abbiamo cominciato un rapporto lavorativo. Lui ha prodotto Il Paradiso, ha prodotto tutte le mie canzoni, e ad oggi abbiamo un rapporto bellissimo, perché c'è una grandissima amicizia, però anche una grandissima complicità, diciamo, lavorativa, perché io mi fido molto di lui mi stima come cantautore, e questa cosa per me è preziosa. E quindi c'è, sì, lui è, diciamo, la figura, il mio maestro. Non si usa più questa parola, però è bella. Il mio molto, molto bella questa cosa. Ma allora un featuring Ermal Meta Cordio? Quando sarò all'altezza. Perché se adesso faccio un featuring con Ermal Meta è troppo più bravo di me. Ne uscirei troppo male. No, però a parte gli scherzi, io spero di farlo in un momento in cui sarò, diciamo, in cui avrò fatto ancora dei passi avanti nella mia carriera. Hai di recente aperto anche alcuni concerti di un altro autore molto amato in Italia e caro al Festival di Sanremo, che è Simone Cristicchi. Ecco, sia tu, sia Ermal, sia Cristicchi avete questo modo di cantare che cerca di raccontare temi importanti e attuali, anche di denuncia, ma in maniera tutt'altro che urlata. Come dire, la rabbia c'è e la denuncia è forte, ma non serve urlare per far sentire la propria voce. Sì, io non tendo a non urlare proprio nella vita, e credo che ci sia bisogno di cose dette a bassa voce, però in un modo diretto, perché a volte si urla senza dire niente, cioè a volte no, l'urlo diventa più una richiesta di attenzioni, ma poi se tu vai a vedere non c'è tanta ciccia. Invece in fondo, per esempio nel Paradiso uso delle parole anche poco musicali, a un certo punto dico: il paradiso è pieno di ragazzi che un giorno si sono ammazzati, e ammazzati è una parola evidentemente poco gradevole, però dipende come la canti, perché io non la canto appunto gridandola, ma quasi con dolcezza, e questa cosa per me rende più forte quello che voglio dire, perché percepisci, diciamo, la profondità e la gravità di quella cosa che sto dicendo senza che io debba appunto gridare per farmi sentire. Il 6 agosto 2019, a meraviglioso Modugno 2019, sei stato premiato dalla Federazione Autori con la seguente motivazione: per l'intensità, la sensibilità e la fluidità di scrittura con cui Cordio disegna nella canzone uno stato d'animo. Sicuramente è una bella soddisfazione per un giovane autore come te. Per questo ti chiedo: quali sono le tue influenze musicali e i tuoi punti di riferimento come autore? Bellissima domanda. Guarda, io in realtà amo la musica italiana, come ti dicevo, e devo dire ho dei punti di riferimento. I miei punti di riferimento sono tutti quelli che scrivono bene, cioè chiaramente ho fatto una indigestione di cantautori, però cioè, ci sono anche un sacco di rapper che mi piacciono, cioè per dire Dargen D'Amico o Marracash, cioè ci sono all'interno della musica italiana ci sono delle penne che veramente riescono ad essere pungenti ed efficaci, e non bisogna per forza parlare di Dalla e De Gregori, che è ovvio che sono dei giganti, no? Ma ce ne sono anche tanti altri. Io per esempio sono un grande fan di Samuele Bersani per quello che riguarda il cantautorato, però appunto, come ti dicevo, credo che anche nel rap ci sia un sacco di bella scrittura, e quindi mi ispiro alle cose che trovo piene di profondità e di, diciamo, guizzi. Bello, bella questa cosa. E invece di questo cantautorato indie di oggi, cosa ne pensi? Ma mi piace molto, ma perché sai che secondo me facciamo un po' una stronzata, scusami, a dare troppe etichette, perché in fondo non significa assolutamente niente. Quello è un contenitore che non ha senso, e devo dire, mi dà un po' fastidio quando mi sembra che alcuni artisti ricalchino dei cliché, no? Per cui devi metterti il maglione largo, devi avere la barba, fumare le sigarette e dire quanto sei scazzato. Però poi alla fine la canzone è brutta. Cioè, quello che invece mi piace tanto è quando vedo raccontata la realtà o i sentimenti in una maniera originale, bella. Io amo Calcutta, amo Gazzelle, amo Motta. Cioè, ci sono esempi di cantautori, per esempio questi tre, che sono bravi cantautori, cioè non c'è tanto da dire se c'è o è indie o è rap, è proprio gente che scrive delle cose pungenti, profonde, acute. Calcutta è geniale, cioè Calcutta quando dice ti dichiaro che da te non ho voluto amore, volevo solo scomparire in un abbraccio, cioè la differenza tra amare e scomparire in un abbraccio è sottile, però saperla raccontare significa essere molto profondi, e quindi io amo questo, cioè amo le canzoni che danno qualcosa alla cultura, cioè che ti fanno vedere dove tu non vedevi, e questo lo può fare un cantautore indie che si veste male, o un cantautore romantico, o un rapper. Come nasce un brano di Cordio? Arriva prima il testo, arriva prima la musica, ti metti alla chitarra, al pianoforte? Anche questa è una buona domanda. Di solito nasce da un'idea di testo, cioè io tendenzialmente parto dalla prima frase, cioè se c'è una prima frase o un titolo che mi colpisce. Se è pianoforte o chitarra è molto casuale. Il Paradiso l'ho scritta al pianoforte perché in quel periodo studiavo al conservatorio e quindi studiavo pianoforte classico e suonavo sempre il pianoforte, per cui mi è venuto naturale usare il pianoforte per comporre. In altri casi la chitarra, per esempio Almeno tu ricordati di me, nasce da un'idea musicale di un autore con cui collaboro spesso, che è il mio musicista, che si chiama Davorio, e quindi a volte mi avvalgo anche della collaborazione di altri artisti, per quanto riguarda soprattutto la parte musicale, perché sui testi tendo ad essere io l'autore. A differenza di molti giovani musicisti di oggi che nascono dai talent o da YouTube, tu ti fai conoscere grazie ai live, agli opening act. Quindi sin da subito hai avuto un contatto diretto col pubblico. Quanto ha influito sulla tua carriera questa cosa? Tornassi indietro, rifaresti le stesse scelte? Sì, assolutamente, perché è una palestra molto autentica, cioè... È ovvio, no? Andare a suonare ai concerti, dover conquistare un pubblico che non è lì per te, ti fa crescere molto, moltissimo. Poi non so quanto possa farti crescere un talent, non è nelle mie corde, diciamo, come esperienza. Infatti, in questo ringrazio Ermal, è stata un'esperienza molto formativa che in pochi possono fare, mi sento molto fortunato. Che progetti hai al momento? Hai live in programma? Ci saranno dei concerti... E poi, insomma, il disco, adesso annunceremo tutto. Ma parteciperai ancora a Sanremo? Guarda, anche questa è una cosa che stiamo valutando. Mi piacerebbe, in realtà, mi piacerebbe. Decideremo, c'è anche una canzone in cui credo, per cui vediamo, magari sì. Bene, Cordio, ti ringraziamo per essere stato ospite ai microfoni di Radio Città Fujiko. In bocca al lupo per i tuoi progetti futuri. E per citare una tua canzone, almeno tu ricordati di noi. Tornaci a trovare. Volentieri, volentieri. Grazie. Ogni volta che ti penso, ti ricordo sempre meno. Dimentico il timore della cattedra, la libertà nel cortile del liceo. Le ore di ginnastica, i compiti, il giorno del corteo. Almeno tu ricordati di me, di tutte queste cose che non voglio ancora perdere. Almeno tu ricordati di me. Dimentico l'odore della camera, la musica, le scale dell'hotel. Dimentico la luce della lampada prima di nascondermi con te. Ma almeno tu ricordati di me, di tutte queste cose che non voglio ancora perdere. Almeno tu ricordati di me, di tutte quelle volte che ti son passato a prendere. Sopra i muri della scuola e sotto i banchi, la memoria poche tracce di quegli anni e prima o poi le perderà. Ma resta questa foto come segno di un passato condiviso, strano come solamente un anno dopo ci saremmo persi già. Ma almeno tu